Dimmi i nomi. Dunque, la responsabile di noi ragazzi al campo estivo di tennis quando avevo 15 anni. Il nome? Adesso è famosa, non posso dirtelo. Oh, santo cielo, ok. Ralph, la chiameremo Ralph. Va bene, adesso il secondo nome. Melanie. Mel... lo sapevo. Ho sempre immaginato... Ma te l'avevo già detto. No, adesso vediamo attraverso quante persone dobbiamo passare per trovare un collegamento tra te e me. No, è impossibile. Ok. Melanie è andata a letto con Heather. Sì. Heather è andata a letto con Brooke. È andata a letto con Brooke. Sì. Brooke è andata a letto con Nina. E io sono andata a letto con Nina, visto? Wow, sì. Perciò quattro, una, due, tre, quattro, sono le persone che collegano te a me. Sembra che sia un mondo folle e piccolissimo. Folle sì, ma non piccolissimo. The Chart, trasmissione di connessioni, cicli, bicicli, improbabili coincidenze e straordinarie commissioni. Ogni 15 giorni alle 17:15 al martedì autogestito. Eccoci. Eccole. Ben trovate a tutte e tutti. State ascoltando The Chart, trasmissione puntata numero 12, giusto? Sì, sì, non sì. Mi sbaglio. Puntata numero 12, pesce d'aprile, non andiamo in onda. Adesso vi lasciamo i microfoni, ci rivediamo a metà aprile. No, stiamo scherzando. Ecco, sarebbe carino giocare con i pesci d'aprile. Io ho tantissimo, non ne faccio uno, organizzo uno. Non credo di averlo mai fatto, in realtà non ho mai avuto questa, però è una buona idea, si potrebbe cominciare. Esatto. Allora, state ascoltando The Chart, penso che tutte le nostre ascoltatrici sanno più o meno che cos'è. È una trasmissione in cui io e Donna giochiamo a trovare e creare le connessioni tra un artista e l'altra, creando un percorso solitamente di 7 connessioni, un po' come racconta la nostra sigla, ma a differenza della nostra sigla non basato su questioni meramente di letto, ma alle volte anche sì, perché scopriamo appunto poi partner, amiche, amanti e quant'altro mentre cerchiamo le connessioni tra un artista e l'altra, e in questo modo vi facciamo compagnia fino alle 18:15, orario in cui poi comincia Atti e Misfatti. E abbiamo cominciato un po' di 12 puntate fa da Regina Spector, e l'ultima, insomma, invece le ultime artiste che abbiamo ascoltato la scorsa settimana rispondevano al nome di Ohio, che poi sarebbe una specie di storpiatura di ciao in giapponese, no? E che insomma poi sarà oggi il tuo spunto di partenza. Sì, perché tutto questo noi ancora non abbiamo, siamo solo riusciti a invertire il giro, ma in realtà non sappiamo ancora come siamo riusciti. Lo sappiamo. Perché una volta abbiamo fatto una puntata con una connessione. No, non me lo sappiamo. Vedi, non perché lo sai. Una connessione in meno. Eh sì, perché se c'è una connessione in meno rivolta o di più, non sappiamo. A un certo punto ci siamo ritrovate capovolte, ma è il bello della chart, probabilmente. Comprendete che è primavera, che farnetichiamo un po', Voi non ce ne vogliate. Se volete chiamarci 0649 1750, noi siamo qui. Se volete scrivere la vostra chart sul nostro blog womenchart.wordpress.com trovate tutte le indicazioni per farlo. Allora sì, stavamo parlando del trio giapponese che abbiamo lasciato nell'ultima chart, la numero 11, e la sua vocalist del gruppo suonava anche uno strumento molto particolare, che è quello che mi ha portato poi alla connessione di oggi, alla musicista di oggi che vi faccio sentire, che è Clara Rockmore, che suonerà un pezzo di Ravel che si chiama Habanera. Ora, per chi non è avvezza a sapere che cos'è il theremin, secondo me è una cosa fantastica. Innanzitutto è uno strumento che inizialmente era stato chiamato eterofono ed è uno strumento musicale elettronico. Ora andatevelo a cercare magari su YouTube, piuttosto che anche proprio, insomma, la definizione. Ed è molto bella, ha un suo perché sembra, quando lo suoni sembra che suoni l'aria. Ma in realtà suoni l'aria, o meglio, suoni le onde sonore che passano attraverso l'aria, create da questo strumento che ha una sorta di antenna e un, diciamo, un piano. Questi due lati producono lo spettro delle onde sonore e le persone ci suonano dentro questo spettro, quindi sembra che suonano ovviamente nel nulla, perché un po' è così, quindi ha un suo fascino molto, molto interessante. Ed è stato inventato nel 1919 in realtà, quindi è uno strumento elettronico, uno dei vecchissimo, se ci pensiamo, cioè proprio agli inizi proprio del secolo. E la tipa che vi faccio ascoltare io, che è nata nel 1911, è una musicista lituana ed è morta nel 98, è stata una delle più grandi, riconosciuta come una delle più grandi suonatrici di questo strumento agli inizi del secolo. Quella che sentirete mentre presenta il pezzo lei stessa è proprio infatti la sua voce. Habanera by Ravel. Come sempre ci eravamo un po' perse, no, nei discorsi mentre ascoltavamo questo bellissimo, insomma, questa bellissima versione per Theremin di un pezzo di Ravel di Clara, in realtà Reisenberg, che poi quello è il nome suo originale, e stavamo parlando del fatto che questa donna era una donna straordinaria di cui non si conosce nulla, ma prima appunto aveva cominciato a suonare, una bambina prodigio, aveva cominciato a suonare il violino all'età di 5 anni ed è come mi raccontavi tu, ancora oggi la studente più giovane ammessa al conservatorio di San Pietroburgo, che è uno, insomma, dei conservatori più importanti del mondo, e fu costretta a lasciare il violino, che era appunto il suo strumento evidentemente più amato, perché aveva dei problemi di ossa. bassa e quindi non poté più suonare questo strumento. Quindi in qualche modo è anche interessante, no, l'approccio a uno strumento in cui in realtà non suoni, non c'è proprio il contatto con uno strumento, anche ma in qualche modo affatichi anche fisicamente, o comunque forse i movimenti sono molto diversi, perché il violino ti costringe in una posizione che secondo me appunto poi dopo un po' poi non sono molto esperta. Il collo del violinista, no? Sì, probabilmente, insomma, comunque è stata anche una scelta, ed è particolare pensarla in questi termini. E poi lei ebbe la fortuna anche di vivere negli anni in cui Leon Theremin aveva inventato, tra le altre cose, perché poi insomma inventò varie cose più o meno utili, più o meno interessanti, come questo strumento, e le insegnò anche a suonarlo. Quindi insomma svilupparono insieme una tecnica che poi appunto era quella di Clara, per diciamo perfezionare appunto la tecnica di per suonare questo strumento. Quindi una donna assolutamente interessantissima, cercate di scoprirla anche voi per quelli che sono i vostri interessi. E io ho avuto una grandissima difficoltà a continuare da Clara, perché chiaramente insomma il Theremin e Clara in qualche modo è appartenuta a questo ambito musicale in un particolare diciamo periodo storico, quindi è stato un po' difficile, a meno di non percorrere. Infatti è stato più diffuso, diciamolo, prima in Russia come strumento, poi negli Stati Uniti, comunque stiamo parlando dell'inizio del Novecento. Esatto, quindi a meno che non diciamo calcare, no, di continuare questo percorso del Theremin. Per cui ci sono tantissime musiciste donne nella storia anche contemporanea che insomma utilizzano questo strumento anche per fare elettronica ed altro. E allora insomma mi sono un po' mi ero buttata sulla sua nascita, che è appunto Clara nacque a Vilnius, che è appunto adesso la capitale della Lituania, e non è stato facile neanche questo percorso, perché in realtà non ci sono tante artiste lituane insomma che vorrei farvi ascoltare, insomma, che mi piacevano come non cioè sono in generale moltissime, ma in particolare non ce ne sono moltissime che in qualche modo potevo farvi ascoltare. Però c'è una cosa bella legata a Vilnius, che c'è un'atmosfera, evidentemente quando sgelano, quando insomma finisce l'inverno, a partire da marzo fino all'estate inoltrata, è una di quelle città dove ci sono tantissimi festival, soprattutto di musica classica e musica jazz, ma veramente una enormità. Insomma, se provate a mettere insieme Vilnius e festival, vi usciranno un sacco di risultati. E quindi uno di questi festival, uno di quelli più anche diciamo importanti, che si chiama il Kaunas Jazz Festival, che si tiene da tantissimi anni, quest'anno ospiterà tra insomma le artiste, oltre a Cassandra Wilson, di cui l'abbiamo già messa Cassandra in qualche modo, non è ancora capitata nelle nostre chart, no, quindi anche lei in qualche modo poteva anche essere lei, infatti pure io ci ho pensato, un collegamento. Ma c'è questa artista piuttosto giovane austriaca che in qualche modo ci dà anche la possibilità di far ascoltare musica da altri parti del mondo, dell'Europa, che si chiama Susanna Sowoff. Lei è una pianista e anche una cantante, autrice dei suoi pezzi. Nell'ascoltarla, insomma, nell'ascoltare un po' dei suoi pezzi, mi veniva in mente un po' Jenny Wilson, un po' Regina Spector, un po' Feist, insomma, molte delle artiste che comunque spesso passiamo qui che ci piacciono molto. E quindi vi faccio ascoltare Susanna Sowoff con il pezzo che si intitola Oh No. Give when all we need is time, but time is passing anyway. If all we need is hope, you say hope is not a plan, 'cause we're in the hands of fate, he's spinning our plate. Oh no. If nothing's ever working like you always say, why are we moving always closer? We'll know one day. You wait for the call that asks for the end. Why don't you just fall to see where we land? If what was needs to be erased, our memory will do. You think our hearts have been misplaced? Noi giochiamo a riarrangiare i pezzi. Se ci mettevate sotto queste, ci stavano. Ci stavano. Ci stavano. E in realtà la connessione è comunque la musica dal vivo, è comunque i festival, perché anche lei suona nello stesso festival in cui suonerà l'artista che vi propongo io, che è Nina Attal, che è un'artista francese, una cantante compositrice molto giovane. In realtà ha registrato solo un EP e un primo disco e sta lavorando tra New York e Parigi al suo secondo album. E chitarrista. E che, non ti vedevo, c'ho lo schermo davanti, non capivo che gesto stessi facendo. E chitarrista, sì, vabbè, ma questo, tanto queste poi suonano di tutto, lo sappiamo. E ci spostiamo di, in realtà, di nazione, perché questo festival si svolge in Estonia da ben 25 anni, ha 4 edizioni, 2 invernali, una autunnale, una sotto Natale, e adesso c'è quella primaverile dal 18 al 27 aprile. Quindi se, comunque, se volete ascoltare bella musica e molte, farvi anche una vacanza in un paese che non avete mai visto, magari uno può essere un'idea. Comunque è pieno, veramente pieno di festival. Loro hanno una lunga tradizione, è il più grande festival jazz del Baltico, si tiene a Tallinn, il Jazz Car, dal 1990. Sì, anche perché noi abbiamo un'idea un po' ristretta del jazz, no? In realtà poi se guardi i loro programmi, no, di questi, certo, festival più... c'è anche tutte le influenze hip hop, cioè tantissima, insomma ci sono tante mescolanze, quindi poi ognuno può trovare quello che cerca. Eh sì, anche perché lei, infatti, Nina Attal, dicono che comunque suoni tra il blues, il soul e il funk, quindi in qualche modo non espressamente jazz, ma probabilmente hanno anche, avendo un facendo suonare tantissimi artisti giovani, anche non hanno un cartellone estremamente soltanto sul jazz, penso. Almeno questo è ipotesi. Ma io penso che in realtà il jazz sia anche un po' tutte queste cose, sì, sì, insomma. Sì, sicuramente. E sono, insomma, da 25 anni hanno fatto suonare più di 3.000 artisti provenienti da 60 nazioni diverse. Diciamo, questi sono i loro numeri di orgoglio. E quest'anno, oltre a Susanna Savov, che andrà a suonare anche lei al Jazz Car a Tallinn, ci sarà Nina Attal, che vi faccio ascoltare con questo pezzo che si chiama Runaway. Creeping every night, babe. Please. sunrise. Run away or treat me right. Little by little I lose my mind. Kiss my lips. Yes, you can do that. Run away. Run away. Run away. You know run what away. I talked about. Run away. I love you, honey. Run È molto carina questa Natale. In effetti anche io ero passata dalle sue parti ed ero un po' indecisa. Mi fa piacere che poi invece carina, molto carina. Lei è francese, è giovane. Vediamo che esce da questo disco, che uscirà, ci farei sentire a Sisterhood. Giovane e molto funky, molto funky e quindi insomma è il suo lato funky in realtà che mi ha portata a diciamo è proprio una connessione molto ampia, perché non c'è una connessione diretta, ma in realtà il suo funky mi ha portata a raccontarvi delle ESG, ESG in italiano, che è una band di cui cerco di parlare quanto più possibile perché nessuno le conosce, insomma non sono molto note soprattutto in Italia, e invece sono delle artiste straordinarie che cominciarono a fare musica diciamo ai primi anni 80 in quel di Chicago, credo che fosse, no, in realtà nel Bronx, quindi New York, esatto, proprio new yorkesi, e in pochissimo tempo, tra l'altro molto giovani all'epoca, cominciarono ad aprire insomma i concerti dei Clash, dei Gang of Four, insomma a farsi veramente le ossa e a dare diciamo il meglio di loro, perché a metà degli anni 70 queste sorelle, perché in realtà sono cinque sorelle che hanno suonato insieme fino a due anni fa, quando c'è stato l'ultimo, pare il loro ultimo concerto il 7 giugno del 2012, e queste cinque sorelle hanno cominciato a suonare perché la madre gli ha comprato degli strumenti sostanzialmente per distrarle dalla strada, per dare a loro qualcosa da fare, appassionarle a qualcosa di alternativo, e chiaramente insomma nella ambiente Bronx non era tanto facile, e loro l'hanno presa seriamente insomma, quindi in pochissimo tempo Le ha comprato, per capirci, tre congas, sì, sostanzialmente, perché poi è una batteria probabilmente, perché poi sono tutte voci, sono le conga e basso anche, batteria e basso, insomma, ogni tanto vengono accompagnate da un paio di musicisti, nelle loro performance live, ma in realtà c'era Nicole che ogni tanto insomma almeno nelle incisioni si metteva al basso e faceva delle cose strepitose. Ma la loro storia è fantastica soprattutto perché in realtà loro dovrebbero essere famosissime, perché ma secondo me lo sono, perché le abbiamo sentite centinaia di volte e non lo sappiamo, più che altro. Nel senso che a un certo punto addirittura loro nel 1992 hanno inciso un EP, un piccolo album che si intitolava Sample Credits Don't Play Our Bills, cioè i crediti, nel senso il citare i nostri sample, i pezzetti delle nostre canzoni sui vostri album non paga le nostre bollette, perché praticamente sapete insomma che se si prende un pezzettino piccolo entro un certo numero di secondi da una canzone non si pagano le royalties e quindi non si pagano i diritti della canzone originale, però non si pagano i diritti, però praticamente non si pagano i diritti e si vengono nominati solo i crediti, ovvero si deve dire di chi è il sample che si è preso. Per cui quindi, se avessero preso, loro dicevano insomma, i soldi dai pezzetti dei loro brani che sono stati usati negli album di Tricky, LL Cool J, Public Enemy, insomma veramente Beastie Boys, cioè, insomma artisti, soprattutto musicisti insomma che hanno avuto un successo incredibile, loro dice saremmo state ricchissime, invece nulla, e quindi insomma io ve le faccio ascoltare perché loro veramente veramente meritano tantissimo. ESG, il pezzo si chiama Moody. Like this. Pop. Eccole. Vabbè, è facile capire perché li hanno presi i pezzetti del loro groove, li hanno remixati e ci hanno fatto altri pezzi. Questo viene fuori se dai 5 strumenti in mano a 5 sorelle nel Bronx. Ecco. Fatelo. Donna non ha detto prima il numero, praticamente c'è un sito che noi ogni tanto bazzichiamo, che fa l'elenco di tutte le... Se tu gli metti un artista, ti dice che dove ha suonato, quali sono le cover che hanno fatto di lui, quale cover ha fatto lui e quali sono i sample che sono stati presi dalle sue canzoni e ti dice i brani degli altri. Bene, sono 343 sample delle ESG che girano nelle canzoni che probabilmente tutti noi abbiamo ascoltato, di questi grandi poi che hanno fatto il boom delle vendite. Trick in testa, Beastie Boy, ma veramente i più grossi, quindi quindi niente, ci tocca a noi di ricordarle e di dirvi di scaricarle, di cercarle, di trovarle in giro. Diffondete anche questa storia. Diffondete la storia e dite: ma ascoltatevi gli originali che ballate sicuramente molto di più, va? Questo potrebbe essere un'ottima risposta. E loro non si sono fermate, come diceva Donna, l'ultimo concerto che hanno fatto è stato nel 2012, ma qualche anno prima, nel 2009, si trovarono ad aprire il concerto al Radio City Music Hall nel settembre del 2009, si trova a New York, Radio City Music Hall, dipende come uno vuole decidere di dare la precedenza, la preferenza, delle Yes. Ovviamente la leader delle Yes è un personaggio assolutamente carismatico e infatti sarà proprio lei quella che ci ascolteremo, perché Karen Ho, che è, appunto, è leader della band Yes, che non si è ancora sciolta, che penso che sia ancora in giro a produrre musica e fare concerti, ma nel mentre, come tutti gli artisti che non riescono a fare una cosa sola, anche lei, in questo caso il pezzo che ascolteremo è tratto da una colonna sonora di cui infatti lei è propriamente l'autrice principale diretta, infatti esce a nome suo ed è la fittizia band, immagino, no, fittizia no, perché qualcuno con lei avrà suonato, insomma, però vabbè, diciamo che il corpus delle canzoni è suo, è scritto e prodotto da lei. È Nel paese delle creature selvagge, che è un film che è stato girato nel 2009, diretto da Spike Jonze. Ci sono stati diversi problemi, però vabbè, è tratto da un libro illustrato, Nel paese dei mostri selvaggi. Vabbè, il regista ha litigato con la produzione, queste cose molto hollywoodiane. Insomma, a un certo punto comunque il film è uscito, tratta di un ragazzino dalla fervida fantasia che vive con la sorella nel pieno della fase adolescenziale con la madre. Vabbè, si trova un periodo di equilibrio, serena emotività, insomma, vabbè, e quindi poi i mostri, tutte le cose. Posso dire che è un libro bellissimo, Maurice Sendak è straordinario. No, anche il film non è male. Chiaramente il libro è un libricino, è un piccolo racconto, quindi riuscire a tirar fuori alla fine un film, insomma, che mette insieme animazione, diciamo, mostri, diciamo, comunque pupazzi, diciamo, no? In realtà ci sono attori veri, però travestiti, e quindi è un modo di presentare anche questi mostri molto giocoso, senza effetti speciali, e invece una storia comunque tratta delle paure di tutti quanti noi. È veramente, secondo me è stata un'operazione abbastanza interessante, tra l'altro, insomma, ovviamente lui scappa di casa perché arriva senza meta nei boschi, arriva in un'isola, navi con una barca, arriva in un'isola popolata da strane grandi creature, appunto, e ne diventa il leader. Il problema magari è quando fai progetti con una casa come la Warner Bros, qualcosa succederà a un certo punto, non è molto facile. E nella colonna sonora, scritta appunto tutta da Karen Ho, leader delle Yes, c'era questa canzone che si chiama All Is Love. Questa era la colonna sonora del Nel paese delle creature selvagge, scritta da Karen Oh. Vabbè, potevamo dire, volevamo dire qualcos'altro sia sul libro, che è un libro illustrato, ricordiamo, di Maurice Sendak, Nel paese dei mostri selvaggi, e poi in realtà abbiamo controllato e effettivamente Spike Jonze litigò con la Universal Pictures, ebbe dalla sua parte sia l'autore del romanzo stesso, del libro illustrato, eccetera, e quindi poi appunto il progetto alla fine riuscì a venire fuori, a essere distribuito dalla Warner. E quindi, per fortuna, perché secondo me vale la pena, è molto carino, molto molto bello. Karen Oh, vabbè, Karen è una delle mie artiste preferite, anche perché veramente è un personaggio. Se non la conoscete, assolutamente andate a guardare, a cercare su web. Sì, più che un video, magari un live, che anche i video sono carini perché sono molto divertenti, anche molto studiati sulla sua immagine. Però se guardate un live, è una pazza scatenata, veramente straordinaria, è capace di coinvolgere, penso, anche gente addormentata da, sì, anche i sassi, come si suol dire. Quindi è una delle mie artiste preferite ed è anche un'artista che fa tante cose, insomma, ha cominciato con altre band, già suonava prima di entrare negli Yes, e ha fatto anche, insomma, spesso, ogni tanto si cimenta con la macchina da presa, perché insomma gira video eccetera eccetera sotto uno pseudonimo e fa tantissime cose, collabora con tante artiste. Un aggancio sarebbe potuto essere per esempio la sua partecipazione nel pezzo che apre l'album di Santi Gold, l'ultimo album, che si chiama aspetta che non mi ricordo, The Make, ok, ve lo dirò fra un attimo perché non mi ricordo l'esatto titolo dell'ultimo album di Santi Gold. E il primo pezzo, quello che apre appunto l'album, si chiama Go, c'è appunto la partecipazione di Karen Oh, ma tantissime tantissime cose. Ho pensato invece che era carino il fatto che in realtà, come si intuisce un po' dai suoi tratti, anche se è abbastanza un misto, visto che anche un padre di polacco, è anche di origine coreana, è nata in una città che si chiama Budan, della Corea del Sud, insomma non famosissima, anche questa nonostante sia, pare, la città più popolosa della Corea del Sud, e in questa stessa città, udite udite, che pensavo che sarebbe stato impossibile trovare una connessione attraverso questo elemento, e invece è nata anche Valérie Trebeljar, che dice, vabbè, chi è Valérie Trebeljar? Non la conosceremo mai, non l'abbiamo mai sentita. In realtà l'avete sentita tante volte, è la chitarrista, cantante e fondatrice dei La Lipuna. Ecco, non lo sapevate, questa un po' vi ha sorpresa. Insomma, La Lipuna, band, come si può dire, indie-tronic in qualche modo, come si suol dire, elettronica indie, che nasce a Monaco alla fine degli anni 90, appunto per volere di Valérie e di un altro paio di elementi, altri tre in realtà, alcuni membri, per esempio c'era Marcus Hager, che c'è ancora, che è anche chitarrista di No Twist, che fa parte, insomma, un'altra band che fa parte bellissimo, di tutta questa... Esatto, di tutta questa diciamo schiera di piccole band che fanno questi album, questi gioiellini, no? del loro genere, che in qualche modo hanno tirato fuori anche una sorta di genere specifico, no? Sì, di una suono, delle cose quantomeno. Sicuramente di suoni. E una delle cose, ad esempio, che mi piacciono molto della Lipuna e di Valérie, di come interpreta le canzoni, è che quando lei canta dice anche delle cose molto toste, ma con questa vocina morbida, tranquilla, come se stesse cantando Ninna Nanna. Sì, niente, non si fa scuotere minimamente, anche perché alcuni dei loro album, insomma, sono anche abbastanza politici, magari se non politici da un punto di vista diciamo della politica mondiale o sociale, ma politici da un punto di vista personale, quindi comunque quello che contro cui ci si batte, ci si scaglia nella vita quotidiana, insomma, fa molto parte dei pezzi della Lipuna. Però appunto uno non se ne accorge se non va a guardare i testi, perché lei lo dice piano piano, sottovoce, in un modo che ci piace anche. Insomma, vi faccio ascoltare questo pezzo, che è tratto da Scary World Theory, che è del 2001, il secondo album. Non potete non avere della Lipuna, sì, fate esatto, qualcosa, cercatelo, sì, e questa è la mia preferita, quindi ve l'ho scelta proprio contratempo. Loro sono La Lipuna. no fundo, enquanto o resíduo perece. Taborias feitas na manga servem ao estado presente, ficam distinto enquanto a maioria embarga. Sem relação de quanto tempo e do tempo presente assimilarem, não se precisava de viagens cosmóticas. As teorias seriam atendidas, mas a inteligência limita a autonomia humana. Siamo fatte prendere. La libuna, contratempo, se non li avete procurate, ve li state ascoltando The Chart, oggi non l'abbiamo detto neanche una volta rientrando, così se c'è qualche ascoltatrice che stava cercando di capire chi fossimo, se è The Chart, questo è il martedì autogestito da femministe e lesbiche, sono le 18.02, siamo quasi alla fine del nostro viaggio per questa settimana, vi ricordo che noi andiamo in onda ogni due settimane, che trovate i nostri podcast o sul nostro blog womenchart.wordpress.com o molto più facilmente e alle volte molto più velocemente su quello dell'mfla.noblogs.org. E Lalipu, che meraviglia comunque Lalipuna, io ci sono addormentata miliardi e miliardi di volte proprio con questo disco, ve lo mettete, vi restituisce la pace, Scary World Theory, copertina blu, pallini che scorrono la tua memoria, e questa è una delle canzoni più belle, questo sono d'accordo. Ma tutta in realtà la mia connessione per arrivare a un gruppo di un quartetto, prima era un quartetto d'archi, poi si è allargato anche ad altre strumentazioni, si chiamano Amina e sono come Sigur Rós, islandesi, e la mia connessione è la casa discografica, nel senso che questa casa, la casa discografica che produce la Lipuna, è una casa discografica di base a Berlino, molto spesso ci capita anche di mettere in campo in mezzo le case discografiche, comunque quantomeno nella nostra idea di musica su quelle piccole come queste che fanno una ricerca dei suoni, anche hanno un parco artisti in qualche modo coerente al loro interno, nel senso che cercano di portare avanti, di produrre una sonorità, un suono, e quindi di caratterizzarsi, e fanno ricerca in quel senso. Infatti, se vi capita, forse non so se li conoscete, hanno prodotto anche i Mum. Belli, Finally We Are No One, e il disco quello con la copertina verde, meravigliosa. Te hai questo ricordo visivo proprio, sì, perché disco con la copertina verde, più del titolo, sì, diciamo. Più del titolo, perché ovviamente essendo una capra in inglese non mi funzionano meglio le immagini, no, perché sono ancora una feticista dei dischi, delle copertine. Ho comprato anche l'ultimo dei Mogwai, faccio coming out qua in microfoni, non ho resistito, ma che volete pare farci? Che il concerto sia stato bellissimo, non me lo dire, perché volevo andarci e ho pianto per non aver deciso di fare questa cosa, di prendere il treno e arrivare a Bologna. Insomma, hanno prodotto anche i Notwist con quel bellissimo disco con la copertina rossa e un cerchio nero in mezzo, ve lo giuro, è così, cercateli. E hanno prodotto anche le Amina con questo suono, quindi, che viaggia tra le sperimentazioni pop, quelle indie, le chitarre comunque molto leggere, un suono in qualche modo di elettronica, però di elettronica ancora abbastanza suonata, dove ci sono ancora tanti strumenti. Le Amine in realtà sono un gruppo, come vi dicevo prima, sono islandesi anche loro, quindi molto, vi parlavo dei Sigur Rós perché in realtà hanno suonato dentro i loro dischi diverse volte in diversi pezzi, perché nascono come un come quartetto d'archi. Il gruppo è stato fondato nell'Islanda, quanti saranno i quartetti d'archi? Cioè due massimo, insomma, nelle lande desolate dell'Islanda, ma che ci ha dato dei grandissimi musicisti, non dimentichiamo Björk su, e anche i Sigur Rós. Poi certo dipende anche dai gusti, da come uno si sente nella musica, ma sicuramente un gruppo che ha esplorato il lato onirico di certe sonorità, e come viene bene Sigur Rós, quello a pochi altri. Noi ci ascoltiamo loro invece, che sono le Amina. Ve lo dicevo, il gruppo è stato fondato nel 96, non vi ripeto il nome della cittadina islandese per vostra per vostra sicurezza più che altro, magari poi ve lo scrivo nel blog. E ci ascoltiamo questo pezzo che si chiama Over and Again. Eccoci. Amina, bravissime. Amina. Che sì. Appunto, tu dicevi questo gruppo che questo quartetto, appunto, violino, viola, violoncello, come il classico quartetto da musica classica, e che poi appunto negli album mettono di tutto, cioè piani digitali, chitarra barocca, arpa celtica, armonium, melodica, celesta, arpa di vetro, kalimba, sega musicale, yeah, che si sentiva qui in questo brano, il theremin anche, di cui torniamo a parlare, il glockenspiel, che praticamente è come lo xilofono, quindi ha la stessa forma, non so se avete presente quello, solo che a differenza dello xilofono ha praticamente i tastini di metallo e quindi c'ha un suono più tin tin tin, e appunto a questa varietà di strumenti, al glockenspiel e anche al violino, insomma sono il punto di approdo a un'altra delle mie artiste preferite, che si chiama Emily Wells, giovane lei, 1981, insomma giovanina, si può dire, giovanina, che giovanina, è appunto una violinista che però ha come ha sempre avuto nella sua diciamo impostazione musicale l'idea di mettere insieme la musica classica e l'hip hop, che sono le sue passioni sostanzialmente, e quindi in qualche modo, diciamo, appunto suonando molti degli strumenti che vi ho appena citato nelle sue performance, e facendo praticamente tutto da sola, nel senso che ha sintetizzatori, loop station, eccetera eccetera. Anche lei è una di quelle che vi consiglio, Emily Wells, andate a vedere in qualche video delle sue performance live da sola che cosa combina e come si organizza, diciamo, registrando cori, coretti, violini e tutto il resto che le serve. Insomma, lei è una veramente. Comunque ce ne sono tante di queste artiste. Perché ora che mi ha detto il loop, ho pensato a Kaki King, appunto, pure lei che quando viene da sola con la sua chitarra, comunque sembrano sempre in cinque, perché si fa il loop di tutto. Quindi dice, vabbè, sembrano in cinque. Gli altri dove stanno? Una stanza a fianco. È uno degli album di qualche anno fa di Emily, da cui ho tratto il pezzo che ascolteremo fra poco. Si chiama The Symphonies, che sono appunto una serie, mi sembra sono 9-10, non ricordo esattamente, adesso non ce l'ho davanti, di sinfonie che hanno sia appunto sinfonia numero 1, 2, 3, che poi è un titolo da canzone, che in qualche modo riassumono, no, anche la sua idea di mettere insieme due modi diversi di pensare la musica, che però nella sua musica, nel suo hip hop classico, in qualche modo riesce a fondere. Lei è Emily Wells, America's Mercy World. Ma vogliamo salutare prima? Vogliamo salutare? Perché tu sei di spalle, quindi sì, vero, lo vedo, no? Sempre io l'orologio, sono le 18:13, sta per iniziare a Temi Sfatti, perché vi ricordo che state ascoltando il martedì femminista e lesbico autogestito, che questo è The Chart, che oggi abbiamo fatto un viaggio lunghissimo, siamo partite da Ravel per arrivare poi in realtà in qualche modo di nuovo alla musica classica, però appunto ascolteremo tra poco, diciamo, con l'ibridazione dell'hip hop, passando dal funky, ascoltando l'indie elettronica della Lipuna. Insomma, non ci siamo fatte mancare niente. Se volete riascoltarci, ci trovate su womenchart.wordpress.com e su mfla.noblogs.org. Noi vi salutiamo e ci diamo appuntamento fra 15 giorni e vi lasciamo quindi ad Emily Wells e il pezzo che si intitola America's Mercy World. Buon proseguimento col martedì. Ciao a tutte.